viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. Il viaggio. Siamo ritornati in diretta qui su Radio Stonata e su Radio Cosud. Finalmente abbiamo ascoltato Claudio Baglioni sabato pomeriggio, un po' di pubblicità. Questa sera è una serata un po' strana, però cerchiamo di tornare alla normalità. Siamo in compagnia di Luigi, ve ne ho parlato prima in apertura di trasmissione, Luigi Lazzaroni è qui con noi. Buonasera, ciao Luigi, ben ritrovato. Ciao, ben ritrovato anche a te. Allora Luigi, chi è andato sui social di Radio Stonata, di Radio Sud, oppure sulla pagina Facebook ufficiale Il Viaggio, ha visto un po' di che cosa andremo a parlare, perché c'è anche il link collegato, quindi li riporto sulla pagina di Non Solo Turisti. E questa sera parliamo con te di Perù, per l'esattezza di Machu Picchu. La prima domanda, no? Tu all'inizio fai un racconto ci spieghi un po' questa storia, come mai sei andato appunto in questo modo alternativo, che poi ci racconterai meglio, però voglio che ci spieghi un po' come è nata questa cosa. Allora, per arrivare a Machu Picchu ci sono vari modi, non la macchina peraltro. Si può andare, diciamo, in treno da Cusco, da vicino Cusco, e costa abbastanza, e comunque sono 2 ore di treno e arrivi. Poi puoi andare invece facendo il classico, il cammino Inca. Uh-huh. E il problema è che dura 4 giorni e io non avevo il tempo per 4 giorni, non li avevo dedicati a quello, perché poi volevo andare in Amazzonia, per cui 4 giorni non li volevo spendere in quel modo. E per cui poi c'era questa possibilità invece di andare, diciamo, quella che viene chiamata la ruta alterna, che vuol dire, come dire, andare con minivan e poi camminare. Insomma, ho detto faccio questa che non costa tantissimo, non mi impegna 4 giorni, ed è una cosa un po' diversa da quelle, diciamo, dai racconti su Machu Picchu che normalmente leggo. Ma tu prima, scusami Luigi, tu prima di andare naturalmente ti sei documentato e sei riuscito a trovare anche questa via alternativa documentandoti, oppure l'hai trovata direttamente là sul posto quando sei arrivato? No, ho ragionato prima, puoi prenotare prima tutto, per cui è una delle tante cose che puoi fare in internet. Una volta dovevi arrivare là e cercare. Io l'avevo visto, l'avevo letto, sono informato e ho detto mi va bene, cioè andare a vedere cose nuove e fare una strada diversa, e così ho fatto, che poi in realtà fanno una cosa diversa a metà, nel senso che sono andato per questa strada, al ritorno, come racconto, ho preso il treno, che però appunto è la metà del totale, insomma. Raccontaci quindi un po' la giornata, com'è stata la partenza. Parli subito di una partenza alle 7:30 con appunto il bus. Sì. Allora, qui funziona così, che in questa piazza, che è la piazza famosa a cui partono tutti, ci sono queste navette, bus navette, e sono tante, tante compagnie che lo offrono in realtà. E poi dopo devi andare lì ad aspettare e capire qual è il tuo, perché poi chiamano per nome, insomma c'è un po' di confusione all'inizio, ma poi si parte. Il viaggio dura 5-6 ore circa, però in teoria è molto bello. In realtà, come racconto lì, io mi sono rimasto meravigliato, perché diciamo tutti quelli che c'erano sul pulmino, che è un pulmino piccolino ovviamente, una dozzina di posti, dormivano. Vabbè che erano tutti giovani, sono io vecchio, per cui avranno fatto, e quindi si saranno persi tutto il panorama, no? Immagino che... sì, infatti io immagino che abbiamo fatto la nottata e recuperavano, cosa lecita peraltro, no? Però fai 6 ore in mezzo in Perù, su e giù per le montagne, tra le vallate, in mezzo alla foresta, e dormi. E sono rimasto non è la prima volta peraltro, mi è già capitato in altre occasioni di gente che dice, ma insomma, vabbè, sei qui per vedere Machu Picchu, ma se vieni qui per le 2 ore di Machu Picchu mi sembra un po' stupido, ecco. Luigi, no, ma oltre, vabbè, il bel panorama che naturalmente c'era, ma com'erano questa strada? Cioè, era una strada tranquilla? No, beh, la strada allora, è tutta tranquilla. C'è un pezzo finale che corre di più, che è strada non asfaltata, però non è come quella che avevo raccontato l'altra volta in Bolivia, la ruta della muerte, assolutamente no. Beh, però anche qui è una strada, è più larga, però anche qui non ci sono, spesso non ci sono barriere, sotto insomma, bello più profondo, c'è l'Urubamba, c'è il fiume che va. Diciamo che è una strada normale, se vuoi, ma nessun problema da quel punto di vista. Se poi non guardi e dormi non hai nessun problema del tutto, come non hanno avuto loro, ovviamente. Però la strada, quello che è bello appunto è che passi nella Valle Sacra, che è tutta verde, poi sali 4.000 passametri, al passo di Abramalaga, ci sono le montagne piene di neve, i nevai, che si vedevano e non si vedevano perché c'erano i nuvole che andavano e venivano. Però insomma di roba, secondo me, da vedere ce n'era. Ce n'era un mare, certo. Come diceva qualcuno, non ricordo chi assolutamente, ma come dire, il viaggio, il bello del viaggio è l'andare, non la meta. Cioè sì. Anche la meta, se vuoi, ovviamente, no? Ma tu non ti muovi solo perché devi andare in quel posto là, vai in quel posto là e nel frattempo viaggio. Ti godi tutta la strada, il viaggio. Ah, sì. È quello che dico io da quando è nato il mio programma radiofonico con voi di Non Solo Turisti, che il viaggio non è soltanto l'arrivare in un punto, me lo dite in tanti comunque, non è soltanto l'arrivare in un punto, ma è appunto è il tragitto che si fa, è il percorso. Sì. Che soprattutto perché quando poi lo fai a piedi, forse utilizzando i mezzi, secondo da dove ti sei seduto, ti viene un po' difficile godere appieno del panorama, comunque tu hai fatto anche un po' di strada a piedi, quindi si gode di più, cioè capisci di più, sì, cosa... No? Uno dei motivi per cui non ho preso il treno anche all'andata è anche quello, cioè dico adesso, ma arrivo qui, prendo il treno, 2 ore per andare, così mi sembrava quasi uno sprecare la giornata, ecco. Per cui poi insomma io preferisco camminare, poi sono un po', come dire, cerco di evitare la folla anche se non è sempre possibile, mi sembrava che questa fosse una strada un po' diversa, per cui ho deciso di fare così. E quindi poi appunto com'è andata, raccontaci. Allora, noi siamo partiti, ovviamente tutti dormivano e va bene, abbiamo fatto su e giù per le montagne del Perù, sono 6 ore, e poi si arriva diciamo alla fine di questa strada, un posto che chiama la idroelettrica, immagino che ci sia una centrale idroelettrica che prende acqua da qualche parte, no? Da lì, in teoria, allora, per arrivare a Machu Picchu, per salire a Machu Picchu, si parte dal paesino, che in pratica è il paesino dormitorio di Machu Picchu, che si chiama Aguas Calientes. Lì ci arrivi appunto in treno, o da Cusco in treno, o dalla idroelettrica dove sono arrivato io, no? È un trenino che però è molto più corto, cioè non sono, saranno a 5-6 chilometri immagino, non di più, mentre quello da Cusco ovviamente arriva da Cusco da centinaia di chilometri. Quindi tu puoi arrivare qui e volendo uno potrebbe prendere per questi 5-6 chilometri questo trenino che passa nella valle lungo il fiume. Però da quel che vedo io nessuno lo prende, tutti quelli, perlomeno tutti quelli che arrivano coi pulmini, per di capire, è tutta gente giovane, zaino in spalla e via a piedi. E cammini appunto lungo la ferrovia sostanzialmente, sui binari della ferrovia, sul sentierino di fianco, e cammini, dicono 3 ore circa, ci ho impiegato 3 ore buone, però sai, dipende da come uno cammina, da come uno si ferma, dall'età che uno ha, però è molto bello perché sostanzialmente giri attorno al Machu Picchu. Sì. Se tu vai a vedere la cartina, se uno prende la cartina, va su Google Maps, vede Machu Picchu, vede che c'è l'Urubamba che fa tutta un'ansa tutto attorno alla montagna di Machu Picchu. Quelli che arrivano da Cusco arrivano, diciamo, guardando, se tu guardi Google Maps, arrivano da destra. invece quelli che arrivano come me dall'altra parte arrivano da sinistra, da nord sostanzialmente, e girano tutto attorno al massiccio. Per cui tu sei giù nella valle, in effetti le pareti sono ripidissime, sei giù in fossato e non c'è niente, ci sono solo queste montagne piene di alberi, di foresta. Ed è... te lo godi, insomma, se ti piacciono queste cose qui è molto bello, ovviamente. Poi sono arrivato a... arrivato là e poi ti dico, dimmi. No, ti dicevo un attimo, ci fermiamo due secondi, ci ascoltiamo un brano e ritorniamo a chiacchierare con te, così ci prendiamo un bel bicchiere d'acqua che ne ha bisogno. Va bene, va bene. Tutto da ballare in diretta qui su Radio Stonata e Radio Eco Sud, il web, l'FM, come vi ripeto da ormai dall'inizio di questa stagione del viaggio 2020, targata appunto 2020, e siamo in compagnia del nostro amico Luigi che ci sta raccontando l'altra strada per arrivare sul Machu Picchu e ci ha raccontato un po' di cose, tipo i ragazzi che stanchi, ipotizziamo stanchi dalla nottata, durante il viaggio in autobus si sono addormentati. Però poi ci stavi raccontando appunto il fatto della camminata a piedi, del treno, e quindi Luigi, com'è andata poi? Racconta. Allora, niente, quando siamo scesi dal pulmino e abbiamo iniziato a camminare, mi sono trovato subito da solo, perché tutti partiti in tromba e sono rimasto indietro, ovviamente, ma anche perché comunque amo guardarmi in giro, far foto e così via. Tranne ho superato, e l'ho anche scritto perché è stata un po' una macchietta, c'erano due ragazzi con stile, con le trecce tipo reggae, non so, che sentivano appunto musica di quel tipo, che avevano un fornelletto e stavano facendo il tè, cioè avevano sullo zaino la bandiera della, come si dice, di Israele. Insomma, sembravano due hippie, in effetti, di tanti tanti anni fa, di quando ero giovane io, probabilmente. Per cui sono gli unici che ho superato, poi non mi hanno più ripreso, per cui io sono rimasti fermi al tè, proprio andavano piano. Poi niente, poi insomma tre ore, all'inizio parti bello in tromba, non c'è molto da salire assolutamente, però insomma ti stanchi, e sono arrivato, ho cominciato a piovere, ho trovato un albergo, non mi ricordo assolutamente il nome, e c'era lì a ricevermi un vecchietto simpatico che mi fa, allora la camera su, mi fa il suo quinto piano, così sta più tranquillo, mi fa, quindi qua sì, bello, tranquillo, no? E faccio l'ascensore, mi fa, non c'è l'ascensore. E vabbè, tu dopo tre ore di camminata stanco morto hai cinque piani da fare, e vabbè, insomma, sono sopravvissuto, ovviamente, no? L'ascensore, poi, non c'è l'ascensore. No, ma proprio così mi fa, così sta più tranquillo. Sì, sta più tranquillo. Va bene, niente, poi la sera è passata, sono andato a mangiare un boccone. Al mattino dopo l'appuntamento era molto presto. Immagino. Era alle 4:30. Per cui mi sono alzato prima, già il giorno prima avevo dormito poco. La colazione ovviamente non era pronta, nonostante avessero detto che sarebbe stata pronta, insomma, vabbè, morale non è, sono le cose che capitano. Sono andato lì in fila per prendere l'autobus per salire, perché lì si sale o con l'autobus o a piedi, però a piedi non me la sono sentita di salire fino a Machu Picchu a piedi, e con me tanti altri, non ero l'unico. Morale, lì in fila pioveva di rotto. Preso tanta di quell'acqua già prima di salire sul pulmino che ci portava su, che non ne hai idea. Ma perché immagino la fila all'autobus era lunga, no? Cioè, non, mi sa che non eri stato l'unico a dire. Sì, io sono arrivato, ho scritto, avevo davanti, non so, una cinquantina di persone, un centinaio di persone, meno di 100 persone. Però quando sono partito poi dopo, in realtà c'era una fila lunghissima, continuavano ad arrivare. Però ho anche visto, e poi ho anche letto, che in realtà di questi pulmini ce ne sono in continuo che vanno su e giù, per cui magari non valeva la pena andare così presto. Però io ho dovuto far così perché, siccome si è obbligato ad avere la guida a Machu Picchu, avevo prenotato un tour con una guida, e l'orario era quello, cioè dovevamo prendere il pullman delle 5 sostanzialmente, i primi 6 pullman, e quindi questo è stato. Quindi si sale col pullman, non si vedeva niente perché pioveva, era ancora buio, pioveva, era tutto appannato, però l'autista andava evidentemente lasciando a memoria la strada. Diciamo che mi sono preoccupato più lì che non il giorno prima lungo l'Urubamba, perché qui proprio non si vedeva niente, non so come facesse ad andare, però vabbè. Siamo arrivati sani e salvi e su in cima c'era già gente, cosa faccio su io, sarà stato il terzo, quarto, quinto pullman, non lo so, c'era già gente e c'era la guida che ci aspettava. E quindi... Ma quindi già c'era gente, quindi se già tu eri partito prestissimo, loro erano partiti molto prima di te. Sì, diciamo che i pullman mi pare che partono verso le 5. Io sono partito tra i primi pullman, sono sicuro, però quando sono arrivato su, qualche pullman era già arrivato, sì, che gente era salita anche a piedi. C'era della gente salita a piedi, perché mi ricordo delle ragazze con la faccia sfinita, fradici perché diluviava, no? Con la faccia sfinita, quindi quelli erano saliti a piedi, partendo non so bene a che ora, ovviamente. Ho capito. Cioè, quelli sì che hanno fatto una bella salita. E niente, lì c'era la guida. Entra, e c'è la guida che ci porta in giro. Allora, io detesto i posti con tanta gente, però insomma Machu Picchu è Machu Picchu, per cui mi sono dovuto adattare e c'era ovviamente gente come me che voleva vedere il posto. E questa guida appunto era come tutti i peruviani, ci sono quelli che vedi che sono chiaramente, diciamo, degli indio come faccia, però sì. La maggior parte sono così, un po' europei, un po' indio, cioè sono tutti meticci ovviamente, la maggior parte secondo me. E questo aveva una faccia così, non proprio tipica da indiano o da inca, insomma. Però nonostante questo ci ha fatto tutto, ci ha spiegato per bene, non è stato bravo, è assolutamente niente da ridire, no? Però ci ha tenuto molto a rimarcare che insomma secondo lui il passato con gli Inca era un altro mondo, un mondo di bellezza, cioè quello che ho scritto, un mondo appunto dove tutti si volevano bene, uno valeva uno, le donne lavoravano, erano pari agli uomini, insomma tutte queste cose qui che uno dice vabbè, sai che in realtà non era proprio così, insomma non è che gli Inca fossero dei datori di lavoro tranquilli, facevano le guerre. Cioè, per lui sembrava, come raccontava lui, era il paradiso in terra. Poi sono arrivati gli spagnoli e si sfronti, scusa, non volevo dirlo, secondo la versione, e tutto è cambiato, sicuramente tutto è cambiato, su questo non ci piove. Però che prima fosse il paradiso in terra, insomma... Vabbè, aveva una versione un po' diversa. Sì, un po' di parte, ma ci sta, insomma, quando vengono a vedere Roma, probabilmente parlano dell'impero romano, della grandezza dell'impero romano, difficilmente si parla di quanti morti ha fatto l'impero romano, sì, ovviamente. No, quindi, se hanno conquistato tanti territori, ci saranno state anche tante persone che sono morte. Ma tanti, anche con l'impero romano. Vabbè, detto questo, abbiamo fatto la visita guidata. Lì pioveva, non pioveva, c'era un nuvolone. Se uno va sul sito e vede le foto, capisce qual era il clima. Diciamo da inverno pieno, non... sembra. Come? Sembra da inverno pieno. Pieno inverno. Sì, no, non, credo non ne faceva assolutamente. Però proprio umido, bagnati, continuava a piovere. E per cui il panorama, da un certo punto di vista, era bellissimo, nel senso che appunto vedere le montagne scure con la nebbia che sale, che scende, ha un fascino, a me piace moltissimo questo tipo di, diciamo, di panorama, forse più che non la luce piena del sole, no? Però dall'altra parte non è che invogliasse moltissimo a seguire, a sentire le storie, eccetera. Insomma, a un certo momento mi ero quasi stufato di continuare a sentire questa storia qui. Però questo è stato. Poi è arrivato il momento in cui dovevo decidere se salire al Huayna Picchu. Huayna Picchu è quella montagna, tu quando pensi a Machu Picchu hai in mente una foto, quella è la foto classica, in cui vedi le rovine e dietro le rovine vedi uno sperone roccioso che va su. Sì, quella è l'immagine classica che uno ha di Machu. Quella è l'immagine classica, no? Ecco, quello sperone roccioso che va su è la Huayna Picchu, è la montagna giovane. In cima c'è quello che chiamano il Tempio della Luna, dove stavano i sacerdoti, le monache, insomma, in realtà poi ci sono solo le casette come in come due a Machu Picchu, no? Però sta là in cima. Per salire lì ti devi prenotare, perché salgono, c'è un numero limitato e si sale in due turni. Io mi ero prenotato, me l'ho pagato, mi ero prenotato, però quando sono stato lì ero molto dubbioso, perché insomma pioveva, ero fradicio, e poi però ho detto, insomma, sono venuto fin qui, mi sembrerebbe stupido rinunciare, però non era invitante vedere questa montagna qui immersa nella nebbia da salire. Comunque ho deciso di farlo, e ci ho impiegato l'ira di Dio, perché va su in piedi che non hai idea, è proprio ripidissimo, ci sono catene dappertutto per attaccarsi, non è pericoloso, è assolutamente, sì, cioè, sì. C'è il sentiero che va su, ma c'hai da fare gradini, gradoni, salti e roccette. Morale, sono arrivato su abbastanza stanco, però valeva la pena, insomma, a salire. Il problema è che da lì in alto, col tempo che c'era, con le nuvole che c'erano, Machu Picchu, ogni tanto si vedeva qualcosa, ma più spesso non si vedeva niente giù in basso. Non sei stato fortunato dal punto di vista meteorologico, Luigi? Sì, da quel punto di vista lì sì, però da un altro punto di vista, dal punto di vista ambiente, ambientazione eccetera, mi è piaciuto tantissimo. Cioè il vederlo, come dire, così fuori dal normale, no? Mi è piaciuto, insomma, non era un posto dove erano, come dire, tutto bello pulito, tutto bello in ordine, con tutta la fila dei visitatori e così via. Qui c'era la nebbia che andava e veniva, l'acqua che veniva giù. A me è piaciuto da quel punto di vista. Diciamo che c'era un'aria di mistero, che è poi quello che secondo me è la cosa che attira di Machu Picchu, non altro. Ho capito. E poi naturalmente sei sceso giù di nuovo, no? Sì. Anche scendere comunque da lì non è facile, per gli stessi motivi ovviamente, perché era tutto fradicio, per cui si rischiava di scivolare. E va bene, niente, sono sceso, sono ridisceso da capo, e poi per tornare invece a Cusco ho preso il treno, se avrei dovuto fermarmi un'altra notte. Per rifare il giro inverso avrei dovuto fermarmi un'altra notte, perché non c'era il pomeriggio, lo facevo in tempo a riprendere e a tornare a prendere alla idroelettrica il van per tornare indietro. Dovevo stare lì per le due, cosa che non potevo fare. Per cui deciso, avevo prenotato il treno, insomma, sapevo tutte queste cose qui, ho prenotato il treno e sono tornato in treno, poi col minivan anche di un paio d'ore, e lì ho dormito anch'io, perché era notte ormai, ho dormito anch'io. E poi il bello, quando sono arrivato a Cusco, da quella specie di ostello che poi dal vecchietto, sono smontato, sei ritornato dal vecchietto. Dal vecchietto, quello che all'inizio, insomma, non spaccicava una parola di inglese. Io ovviamente, a parte l'inglese, lo spagnolo non è che lo possa spaccicare, però ci si intende, insomma. Quindi mi aveva scritto, quando sono partito, mi aveva fatto vedere che ero prenotato, no? Arrivo lì alla una, tutto chiuso, tutto spento. Busso, alla fine viene e lui mi guarda, come dire, che vuoi? E dico, scusi, sono prenotato. Mi guarda, mi dice proprio, no hay habitación. Che uno è spagnolo, non italiano, non capisce cosa vuol dire. Come no hay habitación? Sono prenotato. Mi fa, sì, no, ma no hay habitación, ma no te preocupes. Questa è la frase che tutti dicono lì. No te preocupes. No? E mi ha mandato lì di fianco un'altra casetta lì, che però è una stamberga davvero. E vabbè, insomma, sì, sono le cose di questi viaggi, come dire, organizzati da te. Ci sono le cose belle, ogni tanto ti capita dentro qualche imprevisto, tipo questo qui, che però sono mica morto, era una stamberga, appunto. Poi vabbè, proprio le ultime parole del racconto che trovate su nonsoloturisti.it è che sei riuscito comunque a fare la doccia, però dopo 3 ore sei ripartito di nuovo. Sì, perché vabbè, i programmi che faccio sono, ogni tanto sono intensi. Sì, sono ripartito perché sono andato giù in Amazzonia. L'argomento dei prossimi dei prossimi dei i prossimi iscritti, non so se poi ne parleremo. Sì, ne parleremo, questo... come no? Ti aspettiamo, Luigi, dai. E quindi sì, sono arrivato, ero arrivato già stanco morto da Arequipa. Sono partito presto un mattino, sono tornato stanco morto, sono ripartito, però insomma così è, cioè, mi sono goduto il Perù, questo è fuori di dubbio. Va bene, io direi che come avventura con Luigi ogni volta non ci fa mancare nulla, quindi Luigi Lanzaroni di Non Solo Turisti.it per averci fatto conoscere Machu Picchu dalla parte alternativa, e quindi che dire, ci risentiamo presto con te Luigi, grazie. Va bene, sarà un piacere, grazie anche a te, ciao. Ciao, buona serata Luigi. Ciao.